Credo, credimi, siamo animali da palcoscenico. Cogliamo l'attimo ma senza un seguito. Passiamo il tempo a roderci dentro. Credo, credimi, protagonisti senza successo. Guardiamo il pubblico dall'alto al basso, con l'ansia dell'ultimo applauso. Credo, credimi, chi fischierà il nostro debutto, senza sapere che per noi è tutto, e non ci importa di tutto il resto. E allora salto lungo il fosso, senza guardare in basso. Salto fuori tempo, senza pensare ad altro. E allora salto lungo il fosso, senza guardare in basso. Salto fuori tempo, senza pensare ad altro. Passo è lungo quanto la gamba, se chi cammina sa la sua meta, e con te passino il tempo che passa. Credo, credimi, chi ha detto basta e sono sfinito, chi ha seminato e non ha raccolto, e ha bestemmiato ad un Dio nel vuoto. Credo, credimi, pensiamo al mondo che sta finendo, e non pensiamo che invece è il tempo di provare a viverci dentro. E allora salto lungo il fosso, senza guardare in basso. Salto fuori tempo, senza pensare ad altro. E allora salto lungo il fosso, senza guardare in basso.